America 24 di Mario Platero. In the 2008 campaign, you got a lot of money, about $1 million from employees of Goldman Sachs. Your former White House counsel, Greg Craig, is apparently going to represent Goldman Sachs. In light of this case, do either of those things embarrass you? No. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Avete sentito una domanda alquanto irriverente che un intervistatore Harwood della NBC ha fatto al presidente Barack Obama. Gli ha detto: signor presidente, lei ha avuto dai banchieri di Goldman $1 million di donazioni per la sua campagna elettorale. Non solo, ma il suo consigliere giuridico della Casa Bianca è andato proprio in questi giorni a lavorare per Goldman. È imbarazzato da queste cose? Obama risponde con un secco no, assolutamente no. Dopodiché continua il presidente dicendo che lui ha avuto donazioni da una gran quantità di persone, donazioni straordinariamente diversificate. Non si lascia certamente intimidire dal fatto che la donazione o delle donazioni importanti possano essere venute da un singolo contributore. Comunque sia, ecco che Goldman Sachs raggiunge, tocca anche il presidente Obama, il quale a una domanda molto diretta risponde con altrettanta franchezza che lui non sapeva assolutamente nulla del fatto che la Security Exchange Commission, la SEC, stava per incriminare appunto Goldman Sachs. As far as my former White House counsel Greg Craig, he's one of the top lawyers in the country. He has a range of clients, but we have the toughest ethic rules that any president's ever had. Ecco, l'altra domanda irriverente al presidente riguardava se non ci fosse un possibile conflitto di interesse col fatto che il suo avvocato personale sia poi stato ingaggiato direttamente da Goldman Sachs. Di nuovo, no, risponde Barack Obama, perché abbiamo delle regole assolutamente dure che impediscono a chiunque sia stato parte della nostra amministrazione e poi sia andato a lavorare altrove di mettersi in contatto con noi, e quindi sicuramente il conflitto di interesse non ci sarà. Ma attorno al caso Goldman ci sono altri sviluppi. Abbiamo appreso ieri che forse il caso della SEC poi non è così solido come potrebbe essere, perché Paolo Pellegrini, che era il partner di Paulson, cioè l'investitore che aveva organizzato con Goldman Sachs il fondo speciale su cui si doveva speculare contro il mercato immobiliare, aveva comunicato alla sua controparte dell'ACA, che era l'agenzia di mediazione, che in effetti loro intendevano speculare contro questi titoli. Ecco, l'accusa della SEC dice invece che questa comunicazione non era mai stata fatta. Il problema è che è una comunicazione verbale, non scritta, e dunque il processo comunque andrà avanti. Abbiamo anche saputo oggi che John Paulson, il titolare del Paulson Fund, un fondo da quasi 40 miliardi di dollari, si è difeso con i suoi investitori che, dicevano voce a Wall Street, stavano cominciando a dare l'idea che magari volevano andarsene. E infine la Merkel ha preso una decisione, lo abbiamo saputo dal suo gabinetto, quella cioè di bloccare Goldman nelle sue attività di appoggio al governo tedesco. Una decisione ovviamente questa piuttosto grave per la banca d'affari. Fino a quando non si sarà chiarita la situazione, Goldman non potrà operare come operava prima in Germania, e cioè sui fondi pubblici, come agente addirittura del governo americano. Il presidente ha dato anche qualche anticipazione sulla riforma finanziaria. È importante andare avanti per la trasparenza, la credibilità e per la protezione dei consumatori, ha detto. Parlerà di questo oggi a New York, a Cooper Union, un discorso importante, molto atteso. Ma la vera cosa importante per il lungo termine è un'altra dichiarazione che il presidente ha fatto ieri mattina. Riguarda la nomina del nuovo giudice per la Corte Suprema. I want somebody who is going to be interpreting our Constitution in a way that takes into account individual rights, and that includes women's rights. Vorrei qualcuno, ha detto il presidente, che rispetti ovviamente la Costituzione americana, che rispetti i diritti di tutti, inclusi i diritti delle donne. Il presidente ha detto che quasi certamente entro il mese di maggio darà il nome del nuovo giudice della Corte Suprema, e con questa sua battuta sulle donne, beh, in qualche modo ha raccolto subito reazioni aggressive da parte dei repubblicani, che vorrebbero invece un giudice assolutamente imparziale, visto che i repubblicani sono contrari all'aborto. Ma l'importanza di questa Corte Suprema americana, che forse a noi può sfuggire, è tale perché riguarda un po' tutti gli aspetti della vita americana. E proprio ieri la Corte ha dato alcune motivazioni su una sentenza molto particolare, una sentenza che riguarda i cani. State per ascoltare una registrazione che forse potrà farvi un po' impressione, è una registrazione di una lotta fra cani. Sono dei guaiti che abbiamo raccolto da un video che così mostra un combattimento fra cani. I combattimenti fra cani sono proibiti negli Stati Uniti, avvengono in modo clandestino, ma sono molto popolari e soprattutto lo sono al di là del confine a sud, nel Messico. Alcuni di questi video vengono fatti proprio in loco e dopodiché vengono esportati negli Stati Uniti, dove esiste un mercato. C'era una legge che impediva la vendita di questi video. Ebbene, la Corte Suprema ha deciso di rendere illegale la legge perché ha invocato il primo emendamento della Costituzione che protegge la libertà di espressione, la libertà di stampa, e ha concluso che questi video non possono essere banditi dalla legge americana perché andrebbero appunto contro la tutela del primo emendamento. Una sentenza che a me così mi lascia alquanto perplesso. In effetti, far vedere queste cose non è assolutamente gradevole, soprattutto non è civile, ma la Corte si sta muovendo sempre più in questa direzione libertaria. Perché è intervenuta in modo così drastico? Beh, perché in conseguenza della legge passata dal Congresso, il signor Robert Stevens, che era un autore e un produttore di cortometraggi e aveva appunto registrato alcuni di questi video e li aveva venduti sul mercato, è stato condannato a 37 mesi di prigione, a 37 mesi di carcere. È stato lui dunque a fare ricorso e quindi il signor Stevens potrà andarsene a piede libero, e però i poveri cani potranno essere mostrati in questi video devastanti. Una decisione questa che naturalmente ha scatenato proteste a non finire. Le voci arrabbiate che avete ascoltato appartengono agli attivisti per la protezione dei diritti degli animali, ma le proteste contro la Corte Suprema non sono limitate a questo, perché in passato la Corte aveva già utilizzato il primo emendamento e quindi il diritto alla libertà di espressione per esprimere una sentenza molto controversa. Aveva respinto una legge federale che limitava il finanziamento da parte delle aziende per le campagne elettorali dei politici, una legge molto importante che era considerata fondamentale per tutelare il diritto del singolo cittadino contro la potenza di fortissime lobby industriali. Ebbene, la Corte Suprema ha deciso che le aziende hanno il diritto, come singoli cittadini, di esprimere quello che vogliono, come vogliono, e dunque ha cambiato la legge, cosa che non è piaciuta ai democratici, non è piaciuta a Barack Obama. Durante il discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente ha attaccato violentemente la Corte, c'è stata addirittura una piccola crisi istituzionale, anche perché uno dei giudici, forse alcuni di voi lo ricorderanno, ha reagito in modo abbastanza plateale, scuotendo la testa e dicendo direttamente al presidente: non è vero. Insomma, una piccola crisi. Ma quello che interessa è quello che succederà guardando in avanti. La Corte dovrà prendere decisioni importanti, ad esempio sui discorsi anonimi, oppure sul diritto di libera associazione, oppure sulla limitazione dei discorsi a favore di organizzazioni terroristiche. Se si dà l'interpretazione liberista, tutti hanno il diritto di dire qualunque cosa, anche ovviamente di bruciare la bandiera americana. Decisioni controverse queste della Corte, e dunque la nomina del nuovo giudice che Obama farà entro maggio diventa ancora più importante, perché avere qualcuno che sia magari più centrista o più moderato in questo senso è importante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ma eccoci alla canzone del giorno. Courtney Love cambia nome. Da oggi si dovrà parlare di lei soltanto come Courtney Michelle. La cantante infatti ha detto che Love appartiene solo al palcoscenico, ma che quando lei non è in scena non vuole assolutamente avere nulla a che fare con quel nome. Ricordiamo la vecchia Love, che a noi piaceva moltissimo, con la sua canzone Celebrity Skin, interpretata dalle Hole. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!